E ora passo la parola a Paolo Casalis, con noi al telefono. Buon pomeriggio Paolo, grazie per l'attesa. Grazie a voi, ciao a tutti. Che questa sera sarà al Cinema Mexico per presentare un documentario che si chiama Languedoc, storie di eretici nell'Italia dei capannoni. Diciamo subito che questa serata è organizzata insieme alla Terra Trema, i contadini e vignaioli della Terra Trema. Se vuoi anche magari appunto dirci quali sono gli altri appuntamenti, poi parliamo del film. Sì, la serata organizzata dalla Terra Trema, io vi invito a visitare tra l'altro il loro sito, laterratrema.org, perché è un'associazione molto attiva e consiglio ai milanesi di approfittare di queste occasioni in cui la campagna vi viene a trovare. Si tratta di una serie di appuntamenti che culmineranno poi nei giorni tra il 25 e il 27 novembre a Leoncavallo, a Milano, con una serie di eventi, manifestazioni dedicati a quella che loro definiscono agricoltura partigiana in Italia, e ci onoriamo di questa definizione, di fare parte di questi eventi, di questa rassegna. Ecco, tu invece di portare del vino, del formaggio, come a volte succede al Messico, penso alle feste per il vento fa il suo giro. Sì, qualcosa ci sarà. Però tu porti un film, il tuo sì, conto. Io sì. Ecco, dove l'hai girato e soprattutto che cosa ci vuoi mostrare, cioè cosa ci vuoi dire oltre a farci vedere? Sì, Languedoc è girato nelle Langhe, per chi non lo sapesse sono una regione a sud di Torino, diciamo tra Torino e la Liguria. Il film è ambientato tra l'Alta e la Bassa Langa. La Bassa Langa è la terra dei grandi vini, quindi il Barolo, Dolcetto, Barbarese e quant'altro. L'Alta Langa invece è una terra un po' più aspra, salendo verso le montagne, verso le colline, verso la Liguria. Che cos'è Languedoc? È il racconto di tre storie di produttori di cibo presenti all'interno del film, che sono una produttrice di vino di Barolo, un pastore e un produttore di pasta artigianale, quella che in Piemonte noi chiamiamo tagliarini. Attraverso queste storie in realtà io ho voluto raccontare qualcosa di più complesso, di più anche difficile da raccontare, ovvero la trasformazione dell'Italia, di quello che una volta giustamente veniva chiamato bel paese, in quello che invece Giorgio Bocca nel documentario chiama l'Italia dei capannoni, ovvero un paese ormai abbruttito e deturpato di continuo e in modo, pare purtroppo, inarrestabile dallo sviluppo edilizio, da uno sviluppo economico che ci doveva salvare tutti, mentre invece in questi giorni capiamo che abbiamo venduto la nostra bellezza, il nostro paesaggio in cambio sostanzialmente di nulla. E in quanto tempo l'hai girato e chi hai coinvolto? Ci sono un pastore, insomma, come interagiscono? Cioè c'è un'interazione tra di loro? Come... Io purtroppo non l'ho ancora visto, so che avete anche vinto dei premi. Sì, si tratta di un documentario che segue le vicende produttive, ma anche semplicemente la vita di questi tre personaggi per circa un anno. Io ho filmato tutto lo scorso anno perché volevo seguire tutta la stagione agricola, quindi nel caso ad esempio di Maria Teresa Mascarello, che è la produttrice di vino, ho filmato tutta la stagione fino ad arrivare alla vendemmia, all'imbottigliamento. Stessa cosa per nel caso del pastore Silvio Pistone, quindi dalle prime nevi fino alla mietitura del grano. Quindi c'è un'evoluzione, un percorso reale di quello che poi loro fanno nella realtà. Esatto, io ho cercato un espediente narrativo, cioè quello di servirmi di storie in fondo semplici per raccontare dei fenomeni che altrimenti sono difficilmente raccontabili, perché sono delle trasformazioni quasi impercettibili che avvengono ogni giorno sotto i nostri occhi, trasformazioni del nostro modo di vivere, di consumare il cibo, trasformazioni del paesaggio. Sono cose che avvengono gradualmente, quindi da un punto di vista cinematografico è molto difficile raccontarle. Io ho utilizzato, spero positivamente, questo espediente, cioè mi sono servito di tre storie, delle vicende umane di questi personaggi, per mostrare poi il contesto in cui loro si muovono. La sintesi del film sta nel sottotesto del titolo, ovvero storie di eretici nell'Italia dei capannoni. Si tratta di tre storie di eretici, perché sono persone che pensano e agiscono in modo diverso rispetto alla maggior parte di noi e che si muovono purtroppo in questo contesto ormai desolante opponendosi con ogni forza alla trasformazione del territorio in cui vivono. Ecco, infatti speriamo che siano sempre meno eretici e sempre più normali. Esatto. Questa sera insieme a te ci saranno Maria Teresa Mascarello, appunto vignaiola, Mauro Musso, produttore di Tajarin, come si dice? Tajarin, esatto. In spagnolo. Domenico Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano, che appunto sul salvare il paesaggio si sta muovendo molto. Federico Ferrero, giornalista, autore del libro di quale libro? Scusa, l'autore del libro film, omonimo. Esatto, okay. Perché il film esce in abbinata con un libro scritto dal giornalista albese, il mio coetaneo, 35 anni, Federico Ferrero, quindi c'è questa abbinata che ci ha visto sviluppare gli argomenti del film fin dall'inizio assieme. Ok, e poi Silvio Pistone, pastore, seguito nel film. Quindi alle 21 al Cinema Mexico, via Savona 57, Languedoc, storie di eretici nell'Italia dei capannoni. Grazie Paolo Casalis. Grazie a voi. Ciao. Ciao.